La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla figura di Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, che nel 1786 promulgò un nuovo codice penale che aboliva la tortura e la pena di morte. Ospite ai nostri microfoni Aurelio Pellegrini, sindaco di Montescudaio, provincia di Pisa. La pena di morte continua a essere applicata in diversi paesi del mondo, tra cui la Cina, gli Stati Uniti e l'Iran. Cresce peraltro anche il numero di paesi che hanno deciso di abolirla, la pena di morte, forse memori di un illustre antico precedente. Era il 30 novembre del 1786. Poco meno di 3 anni dall'inizio della Rivoluzione francese, quando un sovrano illuminato dell'epoca, il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, promulgava il nuovo codice penale che aboliva la tortura e la pena di morte. Lo scorso 2 dicembre una copia anastatica della legge di riforma penale di Pietro Leopoldo è stata consegnata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da una delegazione del Comune della provincia di Pisa e una rappresentanza di docenti e alunni. Si avverte nella decisione di Pietro Leopoldo il benefico influsso del clima culturale che negli stati italiani si vive in questo scorcio di Settecento. Grazie all'opera di illuministi del calibro di Genovesi, Pagano, Filangieri a Napoli, i fratelli Verri e Beccaria a Milano. La riforma di Pietro Leopoldo nasce in questo contesto, nel pieno del secolo dei lumi, e si richiama direttamente al pensiero di Cesare Beccaria e alla sua opera più celebre, Dei delitti e delle pene. L'opera, pubblicata nel 1764, ebbe un successo straordinario, fu subito ristampata nel 1766 ed ebbe un'eco immediata in tutta Europa. Nel giro di pochi anni venne pubblicata in Francia, dove fu particolarmente apprezzata da Voltaire e Diderot, e in tutti i paesi europei. Caterina II di Russia invitò Beccaria a recarsi nel suo paese, perché la sostenesse nell'opera di riforma che si apprestava a varare. L'arrivo a Firenze di Pietro Leopoldo segna una svolta importante nella storia della Toscana. 25 anni di riforme, dal 1765 al 1790. Lungimiranti riforme, davvero sovrano illuminato. L'insegnamento di Beccaria, come abbiamo appena sentito, fu decisivo. Quale può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno. Rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle volontà particolari. Non è dunque la pena di morte un diritto. Se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità. Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice. Né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso che egli abbia violato i patti con i quali le fu accordata. Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà a un giudice di dare una pena a un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Abbiamo in linea Aurelio Pellegrini, che è autore del libro Le certezze del Granduca Leopoldo II e le sue troppe memorie, Felice editore. Il dottor Pellegrini è anche sindaco di Montescudaio, in provincia di Pisa. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Le certezze del Granduca però non è riferito a Pietro Leopoldo, ma al nipote, vero? Sì, al nipote, al figlio Ferdinando, il secondo successore del grande Pietro Leopoldo, quello che per ironia della sorte, pur portandone il nome, fu non solo l'ultimo dei granduchi di Toscana, ma fu anche quello che cancellò in gran parte le riforme del nonno, che le proteste regnò oltre 35 anni, le proteste per quasi 30 anni e poi fu travolto un po' dagli avvenimenti e cancellò la pena di morte, cancellò le torture, cioè le cancellò anche se limitatamente, soltanto per motivi di guerra, per motivi dei moti risorgimentali, certo, ma comunque la cancellò. Appunto, questo grande nonno, presenza ingombrante per il nipote, che però fu un grande sovrano illuminato, non a caso se ne ritorna a discutere, perché la sua riforma fu, diciamo, una riforma molto lungimirante. Pietro Leopoldo arrivò in Toscana quasi inaspettato, cioè la Toscana era toccata di Lorena dopo la fine dei Medici, sulla base di una serie di complicate questioni diplomatiche internazionali. Di fatto i Lorena non erano mai venuti in Toscana. Per quasi 30 anni governarono attraverso la reggenza, cioè attraverso consigli, attraverso rapporti rappresentanti. Pietro Leopoldo fu il primo ed arrivò qua con l'esperienza della grande Maria Teresa dell'Austria, in un piccolo stato, e pensò che le cose fossero facili a farsi, le fece suscitando anche aspre reazioni. Non è che fu tutto semplice o che le riforme di Pietro Leopoldo furono accolte dai toscani con grande entusiasmo, anzi per alcuni settori, proprio nella Chiesa, ci fu non solo un'opposizione violentissima della Chiesa, che poi il nipote sconta abbondantemente, addirittura viene escluso dai sacramenti per aver sostenuto il nonno, ma ci sono anche dei moti popolari durissimi, in questo periodo il grido di Viva Maria, contro tutte le riforme, compresa la pena di morte. Questa azione di riforma di Pietro Leopoldo si inserisce nel solco del grande insegnamento di Cesare Beccaria. Ecco, in che modo questo insegnamento fu decisivo per le azioni? Fu decisivo nel senso che è il principio base, cioè che era quello della dignità dell'uomo. Cioè, un uomo è un essere umano fornito di intelligenza, era questa la differenza, cioè fornito di capacità di discernimento, e come tale uomo non può in nessun modo essere privato di quelle che sono le sue caratteristiche di uomo, quindi non solo la vita, che è poi l'estremo elemento, cioè, quindi non solo niente che la rivolte, ma nessuna privazione di quella che è la propria dignità, e da qui niente torture, da qui il carcere solo dopo la certezza che un uomo è colpevole. Beccaria in questo senso, che le pene sono una conseguenza dei delitti, non possono essere un modo per acquisire notizie sui delitti, quindi la dignità della salvaguardia, della dignità e della libertà dell'uomo, questo era l'illuminismo, la grande cosa dell'illuminismo. E nonostante questi grandi insegnamenti dell'illuminismo, a distanza di oltre 200 anni la pena di morte, benché sia stata abolita in molti paesi, continua a essere applicata invece in importanti nazioni, tra cui la Cina, gli Stati Uniti e l'Iran. Una grande nazione come gli Stati Uniti d'America, che dell'illuminismo sono figli, perché la rivoluzione americana è una delle cose che è figlia diretta dell'illuminismo, poi questi principi rimangono ancora ostici. Questo in effetti è quasi un paradosso storico. Il primo figlio dell'illuminismo fu la rivoluzione americana, poi quella francese, però questa cosa, se si pensa che fu figlia dell'illuminismo, ma poi gli americani tennero anche la schiavitù per lunghissimo tempo, quindi questo non è il solo paradosso. Insomma. È un paradosso che peraltro si può incrociare col fatto che gli Stati Uniti hanno una forte tradizione puritana, dunque molto manichea, se vogliamo. Una forte tradizione puritana e comunque una forte tradizione religiosa. Chi le parla, io sono cattolico e quindi non ne parlo da cosa, ma la forte tradizione religiosa, che non è solo quella puritana, ma è anche quella in generale di tutte le varie anime, sette, eccetera, che mai avevano sentito, come si dice, la pena di morte come qualcosa contro la dignità dell'uomo. Ecco, questo è l'altro aspetto. O come dire, l'illuminismo calato sugli inglesi ebbe degli effetti, che poi gli inglesi erano gli americani, ebbe, come lo ebbe in Inghilterra, degli effetti un po' particolari e un po' parziali. Ecco, lei è sindaco di Montescudaio in provincia di Pisa. Sì. E in che modo, appunto, come toscani voi contribuite a tenere viva la memoria e l'insegnamento di Pietro Leopoldo e di Cesare Beccaria? Beh, Pietro Leopoldo ha lasciato segni grossi, ecco, nella Toscana, non solo in questo discorso delle riforme, che poi, ripeto, poi si persero, poi andarono un po' annacquate. Non ci dimentichiamo che la Toscana, dopo Pietro Leopoldo, nella storia del periodo napoleonico, fu per un po' uno stato napoleonico, ma fece parte dell'impero, era una provincia, il dipartimento del Mediterraneo di Napoleone. E questa cosa casomai accentuò quelli che erano stati alcuni aspetti della politica di di Lorena e di Pietro Leopoldo, e quindi questa memoria ancora è tuttora viva, anche se dobbiamo dire, lo dico, la riscoperta della Toscana come primo stato al mondo che abolì la pena di morte è una riscoperta e una valorizzazione di questa cosa, è una scoperta recente, cioè una scoperta, cioè, per il grosso pubblico, voglio dire, è una scoperta, è una rivalutazione da quando la regione, cioè l'istituzione la regione toscana, istituendo la festa toscana, ha individuato proprio in questa data, la data simbolo, di uno Stato che comunque fu, anche nei periodi bui, uno Stato tollerante, nei periodi bui del risorgimento, fu uno Stato tollerante dove i patrioti si rifugiavano, e questo fu anche, diciamo, in tempi diversi, sicuramente un patrimonio e un influsso della mentalità di Pietro Leopoldo, anche se, le ripeto, e questo va associato, Pietro Leopoldo fu un solitario in queste un solitario in Toscana in queste certo. riforme, ebbe pochissimi rari alleati, uno di questi fu un grande vescovo che però ve lo fu messo da parte, che era Scipione De Ricci, che era il vescovo di Pistoia, che attuò nella propria diocesi alcune riforme che erano vicine al giantierismo, a questo. Certamente tutto questo è rimasto, in alcuni aspetti è rimasto, ancora oggi la Toscana, e non parlo solo di colori o di ispirazione, ma la Toscana è un paese, diciamo così, sufficientemente, una regione sufficientemente, come si dice, tollerante e libertaria, chiamano, questo sicuramente c'è, però ecco, la riscoperta di Pietro Leopoldo è recente, rimangono di lui e dei suoi successori lorenesi più i ricordi materiali di quel che si vede in giro, però ecco, delle statue di Pietro Leopoldo la Toscana è piena, insomma, quindi un ricordo, certo, in questo senso anche tangibile è rimasto.